La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana per chi non ci ha già sentito ovviamente da stamattina, ma comunque Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre dagli studi di Milano. Sono le 16:30, primi 49 secondi, e vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporre temi di trasmissione. Di cosa parliamo oggi e quindi su cosa vi chiedo di intervenire all'800240024, 349-238-6666 per gli sms, invece per le opinioni, la vostra reazione guardando le retribuzioni dei dipendenti, dirigenti, giornalisti Rai che sono state rese note in una serie di anticipazioni rispetto alla data ufficiale che doveva essere oggi di rivelazione di tutti coloro che in Rai hanno una retribuzione superiore ai 200.000 euro in questi giorni. Non ancora le star, di cui non sapremo, esterne alla Rai, incaricate di condurre artisti o Fazio e così via eccetera eccetera, ma ce n'è di che riflettere già su queste cifre, dai 200.000 euro in su sino agli oltre abbondanti 600.000 euro di Campo Dall'Orto. Ma come avrete visto, ci sono tra i 200-300.000 euro e anche oltre 300.000 euro alcuni ex direttori, ex dirigenti eccetera eccetera, pagati a disposizione, per così dire. Allora, la domanda, per quello che mi riguarda, non è su questa o quella persona, anche se è evidente che c'è un problema per chi non ricopre incarichi e continua a essere pagato la RAI, perché secondo me gli incarichi dirigenziali e di direttori e vice direttori dovrebbero essere tutti a tempo. Ho spiegato mille volte che già in RAI questo fu tentato tanto tempo fa, e invece la RAI continua a farsi carico a vita di chi poi non ricopre più le funzioni, secondo me è sbagliato. Ma al di là di tutto questo, c'è un punto di fondo che mi interessa sottolineare, e per questo quindi abbiamo qui due ospiti che ci spiegano come funziona altrove. Voi ditemi come la pensate, ma io non posso nascondere una certa delusione per tutto questo, ma mica perché non mi aspettassi che c'è un mucchio di gente pagata su quelle cifre, a dire la verità. Io non ho mai capito perché i governi hanno costituito la RAI innanzitutto di tenere riservate questi compensi. L'autorità della privacy più volte era intervenuta dicendo non è vero che è per tutelare la privacy. Io credo che se fossero stati resi pubblici sempre sarebbe già molto più difficile che oggi ci fosse tutta questa linea di persone pagate anche quando non esercitano incarichi. Quindi io credo che sia stato un errore, perché come al solito la mancanza di trasparenza in un'azienda che è integralmente pubblica consolida i privilegi, li rende privilegi agli occhi ovviamente di tanti italiani che col cavolo ovviamente sono in grado davvero di giustificare retribuzioni di questo tipo, tanto più quanto poi si paga il canone in bolletta. Quindi do atto che è grazie anche alla riforma del governo che noi questa operazione trasparenza la abbiamo, mentre prima non ce l'avevamo. Resta il fatto che è incomprensibile innanzitutto l'opacità che la RAI invece ha mantenuto per tanti decenni. Ma detto tutto questo, questa non è la mia grande fonte di stupore e di indignazione, quanto il fatto che siamo messi di fronte alla realtà. La realtà è che questo governo aveva promesso delle cose e poi queste cose non sono avvenute. Io inizio ricordandovi quello che alla Leopolda di Renzi del 2011 era il 16° dei 100 punti programmatici della Leopolda del 2011. Cosa diceva questo punto? Diceva: oggi la RAI ha 15 canali, sto leggendo testualmente, dei quali solo 8 hanno una valenza pubblica. Solo questi vanno finanziati attraverso il canone. Gli altri, continuo a leggere, inclusi Rai 1 e Rai 2, devono essere da subito finanziati esclusivamente con la pubblicità, con affollamenti pari a quelli della rete privati e successivamente privatizzati. Questo era uno dei punti programmatici della Rai di Renzi nel 2011, quando criticava il suo partito. Niente di questo c'è nella riforma del governo. Il punto successivo cosa diceva? Si occupava della governance della Rai, di questo dimagrito servizio pubblico, visto che si prometteva di privatizzare e cedere Rai 1 e Rai 2 dopo averli ridotti da subito a canali commerciali, quindi reggendosi esclusivamente con la pubblicità e non con il canone, ammettendo che se si fa intrattenimento non è servizio pubblico. E a quel punto si poneva un punto sulla governance, perché questo dimagrito, ma comunque servizio pubblico, fosse al riparo degli artigli dei partiti. E rileggo il punto della Leopolda 2011. La governance della RAI deve essere riformulata sul modello BBC. Occorre cioè un comitato strategico nominato dal Presidente della Repubblica che nomini i membri del comitato esecutivo, composto da manager e un amministratore delegato. L'obiettivo deve essere tenere i partiti politici fuori dalla gestione della televisione pubblica. anche di questo punto programmatico, come la BBC, che ha un comitato di trustee, lo vediamo tra poco, indipendenti dai partiti alla guida e a garanzia della missione di servizio pubblico, non c'è traccia nella riforma del governo, che anzi ha nominato, è intervenuta sul capo azienda, che è emanazione del governo, e ha cambiato il consiglio di amministrazione, anche lì ampliando il controllo del governo, perché il consiglio di amministrazione post riforma è di 7 membri, 4 sono eletti come primi da Camera e Senato, 2 sono nominati dal governo, 1 scelto dai dipendenti, e quindi la somma di espressione diretta del governo, il capo azienda con potere molto rafforzato, i 2 membri del CDA nominati dal governo, più 4 nominati dai partiti, quindi secondo logica di maggioranza, come vedete è una stretta molto forte a favore del controllo del governo sull'azienda. C'era stato promesso un dibattito sul tipo di servizio pubblico prima di intervenire per legge sulla RAI con il canone in bolletta, trovate dalla bolletta che proprio questo luglio stiamo tutti ricevendo, i primi 7 mesi della rata 2016 li stiamo pagando con la bolletta elettrica, e Dio solo sa, lo vedremo più avanti, quanti contenziosi ci saranno per errori formali di imputazione. Ma io vi ricordo intanto il bilancio degli ultimi anni della RAI. La RAI ha perso nel 2009 62 milioni, 98 milioni nel 2010, 4 milioni di utile formale, però di utile nel 2011, poi ha perso 244 milioni nel 2012, è tornata nel 2013 a un utile di 5 milioni e poi 57 ancora di utile nel 2014 grazie ai 280 milioni del collocamento in borsa delle sue torri di trasmissione. Come vedete, un andamento nel quale le perdite non venivano minimamente compensate dagli utili. Quando c'erano utili significativi erano per poste straordinari. Se andiamo a vedere il patrimonio dell'azienda, il patrimonio netto, cioè la somma di capitale riserve dell'azienda, è oltre la metà, è diminuito di oltre la metà di quello di fine 2008, e oggi la RAI, così com'è, tende ad avere, se adottassimo criteri strettamente da impresa privata, un valore economico netto, se sommiamo tutte le poste negative, che è quasi negativo. La RAI ha più dipendenti di Mediaset, Sky e La 7 messe assieme, cioè se sommate Mediaset, Sky e La 7 non fanno dipendenti della RAI, e ai dipendenti della RAI si aggiungono decine di migliaia di collaboratori. Il costo del lavoro alla RAI incide per il 35%, a Mediaset è il 13,4%, a Sky è il 7,3%. I giornalisti sono oltre 1700. A BBC News, cioè che è uno dei più grandi network mondiali di informazione, se non il più grande, ecco, BBC News ne ha poco meno di 2000 rispetto ai 1700 della RAI. Io non vado avanti oltre, se non per dirvi che io avrei molto pensato di aspettarmi da Renzi un confronto generale su cosa dovesse essere il servizio pubblico prima di intervenire sulla governance con l'amministro delegato dell'azienda. Se andiamo a vedere, in Europa ci sono più modelli, e qui finisce la mia introduzione. C'è una specie di modello, come lo vogliamo chiamare, pluralista, polarizzato, con livelli elevati di lottizzazione e clientelismi politici. L'Italia è sicuramente questo, era così in Spagna, era in Grecia prima del pre-default con chiusura e poi riapertura della televisione pubblica. C'è un modello, io dico liberale, ma per intenderci, come in Gran Bretagna, dove c'è il servizio pubblico, però è molto indipendente dalla politica del governo, e l'accordo la charter di servizio pubblico ha visto con il governo Cameron 2 anni fa un'indagine del Parlamento prima del rinnovo per capire come ridefinire il servizio pubblico. E per capirci, la BBC concentra il canone sulle reti di servizio pubblico regolate dalla charter, cioè dalla convenzione di servizio pubblico. A quel punto, sulle reti di solo servizio pubblico, la BBC zero spot, mentre invece gli spot li raccoglie sulle reti non legate al contratto di servizio pubblico come BBC World. Poi c'è un terzo modello rispetto a quello BBC, e quello molto politicizzato e partitizzato, e come lo vogliamo chiamare, un modello di servizio pubblico fatto con stakeholder sociali, che sono a cavallo tra politica, fondazioni, terzo settore, consumatori, enti locali, ed è un modello in maniera diversamente declinato tra paesi scandinavi, Olanda, Austria, Svizzera, Belgio e Germania. Sta di fatto che noi non lo abbiamo fatto questo dibattito su cos'è il servizio pubblico italiano, o meglio, è diventato sempre più partitizzato di prima, e abbiamo il canone in bolletta, ed ecco quanto paghiamo poi anche profumatamente chi magari non ha niente da fare e continua a stare in Rai. A questo punto vediamo come funziona altrove. E quindi abbiamo due ospiti per due di questi tre modelli che ho citato, quello tedesco da una parte, quello della BBC e della Gran Bretagna dall'altro, e quindi farò a tutti e due uno per volta la stessa domanda per vedere cosa ci rispondono, e alle risposte sono qui pronti a intervenire. Io li ringrazio per questo. Da una parte Udo Gumpel, che è giornalista e corrispondente d'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Udo. Sì, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. E Cristina Marconi, che è una giornalista che da Londra scrive per Il Foglio e Il Messaggero. Buon pomeriggio e grazie, Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo dal punto che ha scatenato le reazioni da due giorni in Italia. Allora, primo punto, le retribuzioni dirigenti, giornalisti, star, intrattenitori e conduttori sono pubbliche alla BBC in Gran Bretagna, Cristina? Allora, sì, è una ragione di dibattito anche questa, perché quelle dei dirigenti sono pubbliche, quelle delle star ovviamente è una questione un po' più delicata, perché c'è un fattore concorrenza, nel senso cercare di accaparrarsi i migliori talenti. Quindi quello che è stato deciso è di rendere pubbliche quelle, i salari superiori alle 450.000 sterline l'anno, che è il salario del direttore generale Tony Hall. E quindi chiunque guadagna di più deve dirlo. Quindi ovviamente, però in generale direttori, vice direttori di rete, cioè quelli che... Qui è stata allora, 200.000, di quelli si sa o no? Sì. Quello si sa tutto, e però il problema è che ovviamente per quanto riguarda gli attori è molto facile aggirare questa norma, basta insomma assumerli tramite una società di produzione o in qualche altro modo, per cui non è, insomma, c'è molta polemica per questo, perché di fatto soltanto i presentatori sono quelli che così si espongono al pubblico, alla pubblica indignazione. Però per giornalisti, per capi dei servizi giornalistici, editoriali e per dirigenti era pubblico. Udo Gumpel, esatto, come funziona invece in Germania, Gumpel? I emolumenti ai direttori sono pubblici, e rispetto alle star che magari hanno dei contratti a parte, lì sono delle volte pubblicate, altre volte no. Dipende dal tipo di contratto, ma comunque queste sono, anche lì c'è una concorrenza, perché la televisione tedesca, io lavoro adesso per il maggiore concorrente della televisione pubblica, anche se ho cominciato nella TV pubblica, che ancora continua a fare determinati servizi con loro, e dunque il mio gruppo RTL, per il quale sono corrispondente, naturalmente non pubblica i dati rispetto ai suoi star, ma comunque sono pochi e si sa che quelli prendono anche diciamo buoni stipendi, però i direttori si sa da tempo, così come tutti i redattori, caporedattori, si sa nel servizio pubblico. Ma sono retribuzioni paragonabili a quelle della Rai che abbiamo scoperto in questi giorni, più elevate o più basse, Udo? Naturalmente non sono paragonabili, noi siamo un paese povero, allora la Germania paga meno della metà, anche delle volte un terzo ai direttori delle reti. E di solito la rete da noi, la televisione pubblica, a parte la ZDF che è nazionale, è regionalizzata, ma comunque hanno un bacino di 30-40 milioni di persone, e poi producono 15 reti full program, free, dunque hanno una quantità di responsabilità. Comunque il massimo è, se vado errato, è il collega direttore della WDR di Colonia, che prende 320, tutti gli altri tra 150 e 220. E i grandi direttori, e poi se scendiamo un gradino e siamo già a stipendi molto molto più bassi. Quindi primo, in Germania invidiano gli stipendi della Rai, quelli del servizio pubblico. Ma non so se si invidiano una situazione del genere, perché gli stipendi. Sì, gli stipendi forse, perché comunque consideriamo sempre che uno stipendio anche di 300.000 per il direttore massimo di Colonia e della rete che produce circa il 30% di tutti i programmi televisivi delle 14 reti pubbliche televisive tedesche, e bisogna sempre fare un confronto, come tu sai fare, e tra, mettiamo, lo stipendio medio tedesco o di un metalmeccanico, un operaio alla Volkswagen. Allora l'operaio della Volkswagen prende 4-5 mila al mese lordi, poi i premi, se gli va bene alla Volkswagen o meno, ma comunque prende dei premi, delle volte anche 1000 euro al mese in premio extra, mentre il redattore ordinario parte con 3000 lordi. Dunque il redattore ordinario in televisione guadagna nettamente in meno del meccanico alla BMW, alla Volkswagen. E questo per dirci, cari ascoltatori, che quindi anche la forbice, il moltiplicatore del più alta retribuzione del direttore, con la più alta retribuzione della televisione pubblica tedesca, in realtà come multiplo rispetto alla retribuzione media e mediana tedesca è molto più basso di quanto non sia in Italia, dove ovviamente la retribuzione media sì, e mediana... Mettiamo il direttore, se vogliamo fare con l'annuale, stipendio annuale, il direttore se prende 300, quello che è pagato di più, ha un moltiplicatore, mettiamo che l'operaio prende circa 50 o 60 all'anno, dunque è un moltiplicatore circa 5, normalmente 4, mentre noi redattori o corrispondenti siamo appena poco al di sopra dello stipendio del metalmeccanico. Ecco, non proprio la stessa cosa in Italia, ecco, a dire la verità, per capire, perché poi noi siamo tutti bravi a criticare i tedeschi, però intanto questa cosa registriamola e mettiamola da parte. Torniamo tra un minuto per vedere un pochino come funziona diversamente la governance, cioè il rapporto tra l'azienda del servizio pubblico, la politica e i partiti. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta per vedere di inquadrare questi dati finalmente resi pubblici, almeno delle retribuzioni apicali, quelli sopra i 200.000 euro di direttori, vice direttori, responsabili di servizi della RAI, dirigenti della RAI. E abbiamo visto un po' di diversità rispetto alla Gran Bretagna e Germania. Innanzitutto lì tutto trasparente. In Germania significativamente più basse le retribuzioni all'interno del servizio pubblico. Andiamo a vedere i rapporti tra il servizio pubblico e le istituzioni dei partiti. Cristina Marconi, c'era una canzoncina di Arbor che diceva no, non è la BBC, ma ci spieghi, è davvero, funziona davvero questa, i 12 trustees che governano la BBC sono davvero un filtro verso la politica e i partiti o è una finzione? Allora, lo sono realmente, però a maggio scorso, quindi diciamo una vita fa per quanto riguarda la politica britannica, il ministro della cultura sì, voleva cambiare il sistema, voleva sostituire questo trust con un board di 13 membri di cui almeno 10 di nomina governativa, quindi c'era stato un tentativo di politicizzare la BBC, però poi appunto la storia ha spazzato via il ministro e ci sono anche le altre cose, un po' tutto. E quindi bisognerà capire la nuova ministra per la cultura, questa Karen Bradley, che non ha un passato da in televisione, quindi diciamo non ha interessi. Infatti è piaciuta molto questa nomina della May perché comunque è vista come una tecnica super partes. Vedremo un pochino che cosa farà, perché da qui a dicembre bisogna presentare alla regina la nuova charter della BBC, in cui si motiva fondamentalmente, cioè un gesto simbolico è spiegare alla regina perché bisogna continuare a far pagare 145 sterline l'anno di canone a tutti i cittadini per guardare, esatto, di canone per guardare questa rete, e quindi chiaramente appunto ci vogliono regioni forti anche in termini di innovazione e indipendenza. Ma vivendo lì, la vera ragione per cui la BBC è riuscita a ridurre i costi del 22% in 8 anni, se pensiamo alla RAI, impossibile la dimensione di queste proporzioni, qual è? Allora, sono stati fatti dei tagli, c'è stata l'austerità, alcuni canali sono andati soltanto online, iPlayer funziona benissimo e permette diciamo una gestione più snella dei programmi, BBC World è stata molto ridimensionata, insomma diciamo sono andati giù in maniera abbastanza spietata in termini di tagli, però chiaramente la qualità del servizio, soprattutto del servizio di informazione, resta molto buono. Poi noi dall'estero tendiamo sempre a pensare che la BBC sia fatta soltanto di fiction in costume, roba letteraria di altissima qualità. In realtà loro devono competere anche sulla televisione commerciale con dei programmi che insomma non sono sempre come dire le sorelle Bennett, certo, che leggono coi piedi davanti al fuoco. Quindi in questo deve veramente riflettere tutto quello che il pubblico vuole e chiede. Io penso che dal punto di vista dell'indipendenza della BBC uno dei fattori principali è il fatto che comunque il cittadino telespettatore suddito britannico, se vede qualche cosa che non gli piace, telefona, protesta, va su Twitter, scrive al Daily Mail, non qualunque tipo di come dire ammorbidimento rispetto a quello che dovrebbe essere il principio dell'educare, intrattenere, qualunque tipo di Come non sono, non sono rassegnati i britannici, ecco, vogliono un servizio pubblico. No, l'Unione Europea si è visto per quello, esatto. Ha dovuto veramente camminare sulle uova per riuscire a fare un qualcosa che fosse considerato imparziale. Domanda autocomp: come funziona nei 15 canali pubblici complessivi di questo sistema decentrato oltre alla rete nazionale? Cioè, chi vince le elezioni tra CDU, CSU, SPD, eccetera, nomina i direttori di telegiornale come da noi oppure no? No, vero? Allora, una cosa sul canone: il canone in Germania non si è abbassato. Il canone è 17,50 euro a persona al mese, dunque all'incirca 200 euro grosso modo. Portano 8 miliardi di canone nelle casse delle televisioni, delle televisioni pubbliche, radio televisioni pubbliche. Dunque sono tanti soldi. Sì. Le entrate però sono al 95% da canone. E c'è al massimo nella prima rete 20 minuti di pubblicità al giorno. E anche lì c'è una proposta di levarlo del tutto, ed è infatti la ragione per cui anche il gruppo per il quale lavoro io, il gruppo RTL, ha una buona vita, perché c'è ancora una bella fetta di pubblicità. Comunque l'ascolto, anche per dare questo dato, è all'incirca il 35-40% dell'ascolto complessivo e sempre delle reti pubbliche. E dunque loro hanno mantenuto una buona fetta, ma con una offerta tematica molto molto variegata. Dunque questo è veramente anche un bel filo da torcere per noi, che io adesso naturalmente lavoro per il gruppo concorrente maggiore, il gruppo RTL, e che ha altri 15 reti in Germania, però comunque noi viviamo la pubblicità totalmente e non del canone. Allora, tu mi chiedevi della governance, cioè, che, ovvero vince le elezioni, dato che sono circa 7 reti regionalizzate, e anche nello ZRF c'è una governance che fu imposta dagli inglesi. E dai primi direttori della televisione tedesca pubblica erano tutti inglesi. Era Graham Greene, il fratello di Hugh Greene, e che era per tanti anni direttore della televisione pubblica, e fu imposto una costituzione, diciamo uno statuto, che ha messo al riparo dalle idee politiche. Perché il board, ovvero il consiglio di amministrazione della televisione pubblica nelle singole regioni, che non corrispondono neanche ad una singola regione politica, ma abbracciano 2 o 3 regioni, e hanno una durata di 6 anni, dunque non i 4 anni. Non coincidono con la legislatura. No, e poi c'è una cosa molto più importante: il consiglio di amministrazione e tutte le decisioni di indirizzo e economiche sono prese da una specie di parlamentino che deve rappresentare la società civile. Esatto. In questa società, in questo parlamentino, i politici nel loro complesso, l'intero Parlamento regionale o regionali, non hanno la maggioranza. Dunque anche un partito che vince non ha mai la maggioranza. Allora, ti fermo un secondo, perché come vedete... No, scusami, questo sì, è molto importante. Certo che lo è. In quel parlamentino sono rappresentati tutte le organizzazioni importanti della società. Ci sono gli imprenditori, i sindacati, associazioni delle lesbiche, le due chiese e anche... E per questo io l'ho chiamato un modello di stakeholder sociale, perché questo significa è un vero filtro contro l'indirizzo politico pro tempore. Allora, si tratti del modello britannico, si tratti del modello tedesco, ma come vedete in Europa, al di là di chi ha abolito il canone, sta solo di fiscalità generale, Spagna, Olanda, Polonia, come vedete i filtri ci sono, è solo che la politica italiana fa finta di non volerli vedere, ma non li adotta. Questo è il problema. Vuole solo i soldi del canone di servizio pubblico, e la RAI in più però combatte con molta più pubblicità dei casi in cui abbiamo visto, perché in entrambi i casi, britannico e tedesco, ci sono dei limiti molto pesanti alla pubblicità. Come vedete, le anomalie, non si tratta di inventarsi niente, si tratta di seguire qualcuno dei tanti modelli che funzionano meglio nel mondo, solo che i partiti italiani non vogliono, e la destra è stata uguale alla sinistra in questo, mi dispiace doverlo dire, ma è così. Sentiamo rapidamente alcuni di voi. Giovanni, che ci chiama la provincia di Roma. Giovanni, prego. Ma guardi, io penso che la natura della RAI è pubblica. Se qualcuno eccepisce che è un contratto di natura privatistica, mi chiedo per quale motivo ai dirigenti che non hanno più un incarico vengono mantenute le retribuzioni. I contratti dei dirigenti prevede che un dirigente riceva una bonifica da 18 a 24 mesi, basta. Quindi almeno tutti quelli che non vengono impegnati non incidano sul bilancio della RAI. Mi sembra buon senso, però naturalmente non è così. Costantino, dalla provincia di Caserta. Costantino. Sì, ho una bella fotografia sulla mia scrivania con lei, fatta a telefono. Quindi una stima enorme. No, vabbè, ma al di là di questo, ma grazie. Detto questo, dire indignati è poco. Io sono un dipendente del Ministero della Giustizia e sono anni che non facciamo il contratto. Ultimamente Renzi ha messo nel suo programma al 12° punto la riqualificazione del personale che non fa. Abbiamo a che fare con un venditore di fumo ed è vergognoso che i dirigenti di un ente pubblico, ma io allargherei anche al Parlamento, alle regioni, a tutti questi e insomma, Costantino ha un'opinione critica generale e va bene, però noi oggi stiamo parlando della RAI, che è un po', come si vede, pubblica quando si vuole e privata quando si vuole, a seconda di che cosa bisogna prendere il meglio da ciascuno dei due mondi. Valerio da Bologna, prego Valerio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Devo spezzare una lancia a favore della RAI, perché siete stati ingenerosi a fare un rapporto con Inghilterra e Germania. Voi dovevate prendere Turchia e Marocco. Come parte così bene e poi spara una cannonata, che cavolo. La Turchia, no, guardi, la lascerei perdere, perché in Turchia li carcerano tutti quelli che non sono a favore del gruppo. Però Giannino, no, sinceramente io tutte le volte che l'ascolto sono dispiaciuto per la lucidità con cui lei espone inutilmente perché in questo paese. No, non è vero. Ma non è vero. Noi ma esistiamo questo per questo. Non è vero. Valerio, non dica così. Noi siamo qua per fare il nostro mestiere senza canone, ringraziando gli ospiti come Cristina e Udo Gupp che vengono qua gratis a impiegare il loro tempo. E grazie a voi tutti. Continuate su Radio 24, appuntamento 8:15 di mattina con me, Alessandro Milano. Attenti, noi due.